Mango Tart legge Manacold di Sen Lin Yu. Capitolo 22. La mattina dopo si trascinò giù dal letto ed entrò nel bagno in fondo al corridoio per una doccia. L'acqua calda che batteva e si irradiava intorno a lei era la cosa più vicina al comfort fisico a cui aveva accesso. Chiuse gli occhi e rimase lì. Alla fine sprofondò sul pavimento e si abbracciò le ginocchia mentre stringeva gli occhi e cercava di non pensare alla notte precedente. Si concentrò sulla doccia. Uno degli aspetti più sottovalutati della magia era la fornitura infinita di acqua calda. La temperatura non vacillava mai né si esauriva. Scorreva semplicemente. Se fosse rimasta lì per un giorno intero, l'acqua sarebbe uscita ancora calda. Quando finalmente si costrinse a chiudere i rubinetti ad uscire, rimase in mezzo al bagno fumante, cercando di trovare la forza di volontà per asciugarsi e vestirsi. Non si era mai sentita così demotivata. Esistere sembrava una richiesta così ingiusta. Avrebbe dato qualsiasi cosa per un libro, per poter leggere qualsiasi cosa tranne le notizie. Era stufa delle notizie. Forse sarebbe andata a fare una passeggiata. Non era ancora uscita dall'equinozio. Non sapeva se sarebbe mai stata in grado di avvicinarsi di nuovo alle siepi, ma forse avrebbe potuto fare una passeggiata lungo uno dei sentieri. Poteva controllare le gemme sugli alberi, contare narcisi, qualcosa. Uscì dal bagno e percorse il corridoio ghiacciato avvolta nell'asciugamano. Tornata nella sua stanza, andò verso il guardaroba per tirare fuori un nuovo set di vestiti. Stendendoli sul letto, lasciò cadere l'asciugamano e si esaminò. Le cicatrici di Montague erano tutte completamente svanite. C'era un punto all'interno del suo seno destro che sentiva ancora segnato. Ci passò sopra le dita, pensierosa. Era così profondo che probabilmente avrebbe dovuto richiedere un incantesimo di guarigione più specifico. Sentiva la zona dolorante. Era così profondo che il tessuto danneggiato non era solo dermico. I tipici incantesimi di guarigione erano progettati per riparare la pelle e i muscoli. Probabilmente c'era un incantesimo specifico per riparare il tessuto mammario, ma non riusciva a ricordarlo così su due piedi. Chiuse gli occhi e cercò di ripensare e vedere se riusciva a ricordare di averlo imparato. Ricordava un grande libro di incantesimi di guarigione. L'aveva portato costantemente con sé per diversi anni. L'aveva rimpicciolito per farselo entrare in tasca, sempre a portata di mano. L'aveva macchiato di sangue e pozioni che cadevano e affondavano nelle pagine quando era troppo occupata per incantarle, con le orecchie nelle sezioni più importanti. Tante pagine con le orecchie, piene di note e margini. Era stata la prima cosa che aveva comprato dopo la morte di Silente. Si ricordò del grande gufo che volò nella sala grande di Hogwarts e glielo fece cadere davanti. Tutti gli altri parlavano di riavviare l'esercito di Silente, di comprare libri sulla magia di difesa, ma Hermione si era votata la guarigione. Era stato l'inizio dello scisma, lo spazio che lentamente cresceva tra lei e tutti quelli della sua età all'interno della Resistenza. Mentre loro si esercitavano su scudi e schiantesimi, lei era andata da Madama Pomfrey e le aveva chiesto un apprendistato. Passava la maggior parte delle sue giornate con lei, memorizzando ogni incantesimo di guarigione e di diagnostica avanzata che poteva insegnarle, imparando a quali segni e sintomi fare attenzione. Il lavoro di guaritore era molto preciso e sottile. Richiedeva la capacità di filtrare le distrazioni e di concentrarsi, di incanalare la magia in sfumature estremamente delicate, di determinare l'incantesimo appropriato, perfezionare l'inflessione e poi incanalare le proprie intenzioni con precisione. I guaritori non usavano bisturi fisici, ma magicamente parlando l'esattezza mentale e il lavoro di bacchetta erano paragonabili. Aveva memorizzato diagramma dopo diagramma l'anatomia umana. Si esercitava su tutti i dettagli che doveva allenare i suoi occhi a cogliere in corso di diagnosi. Pezzi di puzzle di informazioni che dovevano essere assemblati per identificare ciò che poteva essere sbagliato. Poi, la sera, si recava nei sotterranei per studiare pozioni con Piton. Quando aveva finito con la guarigione e le pozioni, si rintanava in un angolo della biblioteca, sfogliando libro dopo libro alla ricerca di incantesimi utili per Harry, finché non si addormentava lì. Lentamente si era allontanata dai suoi amici. Erano tutti così giustamente arrabbiati e tuttavia ottimisti dopo la morte di Silente. C'era un fuoco di certezza che li spingeva, che Hermione non riusciva a far scoccare in se stessa, nemmeno all'inizio. Più imparava, più la sua fiducia nell'esito della guerra sembrava diminuire. Nessun altro sembrava apprezzare quanto fosse difficile tenere in vita le persone. Quando lei non condivideva l'ottimismo, li offendeva. Era amica di Harry, perché non avrebbe dovuto credere in lui? Perché era così determinata a far sentire tutti spaventati? Pensava di essere più intelligente di loro? Non riusciva nemmeno più a lanciare un Patronus. Forse, se avesse passato più tempo a fare pratica con gli incantesimi di difesa, avrebbe smesso di essere così preoccupata. Non è che non prendessero sul serio la guerra, ma la loro prospettiva era ristretta. Era luce contro tenebre, bene contro male. La luce vinceva sempre. Guardavano le storie, i libri di storia. Sì, alcune sarebbero morte, ma sarebbe stato per la causa, una morte degna. Non avevano paura di morire. Alla fine aveva smesso di parlare e si era ritirata nei suoi libri. Non c'era motivo di far notare che i libri di storia venivano scritti dai vincitori o che c'erano molte guerre nel mondo babbano, dove le vite erano solo un'altra forma di munizione, dove le battaglie non significavano nulla o producevano più di una nuova lista di vittime, una nuova fila di tombe. Forse tutti avevano bisogno di credere a quelle cose, ma Hermione non poteva. Aveva bisogno di prepararsi. Si era murata nella guarigione, nelle pozioni, nei libri, fino a quando il Ministero della Magia non era caduto e la guerra non era ufficialmente iniziata. Poi era stata mandata di corsa a studiare in Francia. Poi in Albania, quando la Francia divenne troppo pericolosa. Poi in Danimarca. Poi l'Austria? No. C'era stato un altro posto prima che lei andasse in Austria. Sembrava che ci fosse un vuoto, una macchia. Spinse sullo spazio vuoto nella sua memoria. Da qualche parte. Era andata a studiare da qualche altra parte. Dove poteva essere? Perché avrebbe dovuto dimenticarlo? Forzò la mente verso la macchia ed era solo penombra. Una bassa luce dorata emanata da una lampada. Polvere, l'odore di carta vecchia, secca e verde. E la sottile catena di una collana nelle sue mani. Nient'altro. Premette più forte, ma il ricordo svanì di nuovo in fondo nella sua mente. Non riusciva a ricordare altro, proprio come non riusciva a ricordare l'incantesimo per riparare il tessuto mammario. Sospirò tra sé e sé mentre staccava le dita dalla pelle. Il difetto della sua memoria era sempre più snervante. A volte non era nemmeno sicura di sapere chi fosse stata durante la guerra. Ricordava se stessa come una guaritrice. Solo una guaritrice e un'amministratrice di pozioni. A un certo punto si era allontanata da quella persona e non sapeva come o quando fosse successo. Quando era diventata una persona che Voldemort avrebbe descritto come pericolosa. Una persona che aveva raso al suolo un'intera prigione. Che aveva bruciato i dissennatori e pugnalato Graham Montague con dei coltelli avvelenati. Non aveva idea da dove potesse venire quella versione di se stessa. Trovava difficile credere che quella persona fosse mai esistita. In qualche modo, quella persona misteriosa era stata inghiottita nell'oscurità sotto Hogwarts. Senza i racconti di Voldemort, Malfoy e Montague, non avrebbe mai saputo della sua esistenza. Avrebbe quasi pensato che si trattasse di una specie di inganno, se non avesse avuto così tante cicatrici di cui non poteva non rendersi conto. Abbassò lo sguardo sul polso sinistro. Passò la punta delle dita sulle cicatrici sparse e argentee che le chiazzavano lo sterno e le clavicole e poi tracciò la lunga e sottile cicatrice tra la settima e l'ottava costola. La guaritrice Stroud le aveva detto che le fughe nella sua mente non erano una dissociazione o personalità multiple, ma lei sentiva che dovevano esserlo. L'Hermione che sapeva di essere non avrebbe mai raso al suolo mezza prigione e ucciso innumerevoli altre persone per fare irruzione. Nemmeno per Ginny. Non avrebbe trattato tutti gli altri come danni collaterali in un tentativo di salvataggio. Non sapeva come riempire un cielo di dissennatori in fiamme. Non aveva mai portato con sé coltelli avvelenati, tantomeno aveva imparato a pugnalare qualcuno con essi. C'era qualcosa di cavernoso nella sua ignoranza e non sapeva come conciliarlo. Si mise la vestaglia, scese le scale e si fermò davanti alla porta della veranda. L'aria era calda e profumava di terriccio, con deboli tracce di dolcezza. C'erano enormi letti di narcisi e iris che sembravano essere spuntati nelle 2 settimane precedenti. Gli uccelli cantavano. Era come se il mondo esterno si fosse trasformato mentre lei giaceva nella sua stanza buia. La natura aveva lasciato cadere il suo sudario e aveva smesso di rispecchiare la freddezza e oscurità della sua vita. Il mondo l'aveva lasciata indietro. Aveva ripreso vigore, ma Hermione era ancora intrappolata in una gabbia, fredda e mortale. Si voltò e tornò dentro. Non voleva sentire il risveglio della primavera, non sulla sua pelle o nel suo sangue. Non voleva pensare alla vita che si agitava, non intorno a lei, non dentro di lei. Topsy apparve prima di cena. «Devi prepararti subito!» squittì. Era parecchio tempo prima di quanto Malfoy fosse mai venuto. Non aveva idea di quale potesse essere la ragione del cambiamento. Ogni pizzico di imprevedibilità in più non faceva che peggiorare la situazione. Divenne fredda per il terrore. Andò in bagno e si lavò. Mentre si asciugava con le mani tremanti, si ricordò delle pozioni che la guaritrice Stroud le aveva mandato. Era così nervosa la sera prima che le aveva dimenticate. Dopo essersi vestita, andò a prendere una delle fiale dal mobiletto del bagno. Non era un distillato della pace, il colore e la consistenza non le erano familiari. Lo annusò. Il profumo era pungente nelle narici, leggermente agrumato e pepato. Ne mise una goccia sulla punta delle dita e l'assaggiò. Era caldo e leggermente dolce sulla lingua. Aspettò un minuto. Si sentiva meno fredda e ansiosa. Lo inghiottì e fu calore che le scivolava giù per la gola. Quando raggiunse lo stomaco, il calore sembrò espandersi in tutto il corpo. La pelle le formicolò e divenne quasi dolorosamente sensibile. Hermione si bloccò, sussultò con orrore e si sporse in avanti fissando con gli occhi spalancati lo specchio. Le guance le si arrossarono e gli occhi le si dilatarono mentre studiava il suo riflesso. Si premette le mani sulla bocca e si mosse all'indietro. Stroud le aveva dato una pozione di lussuria. Voleva scoppiare in lacrime mentre cercava di stabilizzarsi e allontanare gli effetti della pozione che la stava bruciando. Non poteva essere vero. Era solo smisuratamente crudele. Le tremavano le mani mentre cercava di pensare a una qualche soluzione, un modo per neutralizzarla. Prese la tazza accanto al lavandino e tracannò un bicchiere dopo l'altro di acqua nella speranza di espellerla dal suo organismo. Non funzionò. Il calore nel suo corpo sembrava scendere più in basso, cominciando a irradiarsi dal basso ventre. Entrò nella stanza. Non riusciva a capire perché l'avesse fatto. Punire Malfoy per qualsiasi interferenza fatta nel programma di ripopolamento era una cosa. Ma ingannare Hermione fino a farla drogare con una pozione di lussuria era un livello completamente nuovo di insensibilità. Salì instabile sul letto, si sdraiò e chiuse gli occhi. Se solo fosse rimasta ferma e si fosse concentrata, sarebbe andato tutto bene. Lo scatto della porta la fece trasalire. Aprì gli occhi e trovò Malfoy in piedi, freddo e teso mentre si slacciava la giacca e se la scrollava dalle spalle. La studiò mentre attraversava la stanza, stendeva gli abiti sul bordo del letto e la fissava. «Vuoi un'altra pozione calmante?» disse. «Forse avrebbe aiutato». Calcolò che avrebbe potuto alleviare la reazione fisica con cui il suo corpo stava bruciando. Fece un cenno secco e si mise a sedere. Quando prese la fiala dalla sua mano, Le loro dita si sfiorarono e dovette mordersi la lingua per evitare di ansimare. Lei la strappò e la trangugiò mentre Malfoy buttava giù la sua. La pozione ebbe un effetto peggiorativo. Invece di alleviare i sintomi, fece sì che il suo corpo si rilassasse ulteriormente. Lasciò cadere la fiala sul letto mentre cercava di restituirla. Si coprì la bocca con le mani e scoppiò a piangere. Malfoy la fissò per un momento. «Cosa c'è che non va?» chiese. «La guaritrice Stroud mi ha mandato una serie di pozioni che ha detto che avrebbero reso le cose più facili», disse, scacciando le lacrime e fissando con determinazione le coperte del letto. «Me ne sono dimenticata ieri, ma l'ho presa stasera, poco prima del tuo arrivo. Pensavo fosse per l'ansia. Era quello che sembrava quando ne ho provato una goccia. Non è che possa analizzarle con gli incantesimi. Così l'ho preso, ma...» si strozzò leggermente. «Era un afrodisiaco». Ci fu un silenzio stordito. «Sei un idiota», disse infine Malfoy. «Ingoi qualsiasi cosa senza fare domande». Hermione trasalì. «L'ultima volta che ti ho chiesto di identificare una pozione inviatami me l'hai ficcata in gola per puro dispetto. Dovevo supporre che questa volta sarebbe stato diverso con te». Malfoy rimase silenzioso. La rabbia che emanava era palpabile, come onde di calore intorno a una fiamma. L'aria sembrava quasi distorcersi intorno ai bordi del suo corpo mentre stava lì, a fissarla. «Sei un idiota», disse di nuovo. Voleva solo raggomitolarsi su se stessa, come una palla. Il calore in lei era distrattamente costante e tutto il corpo era troppo caldo e sensibile. Si sentiva vuota dentro. Voleva essere toccata. Nessuno la toccava da così tanto tempo. «No, no, no», fece un profondo respiro tremolante. «Non puoi aspettare a farlo più tardi stasera. Sono sicura che l'effetto svanirà tra qualche ora». «Non posso. Sono stato richiesto in Francia stasera. Per questo sono venuto presto. Non tornerò al Manor fino a domani sul tardi», disse Malfoy. Hermione emise un piccolo singhiozzo. «Bene». Si strozzò e si costrinse a sdraiarsi di nuovo sul letto. «Fallo e basta». Strinse gli occhi e cercò di concentrarsi sul conteggio all'indietro da 1000, raddoppiando ogni volta il numero sottratto. Meno 1. 999. Meno 2. 997. Meno 4. 993. Meno 8. 995. Sentì Malfoy spingerle il vestito da parte e rabbrividì. Meno 16. 979. Meno 32. Le dita di Malfoy vicino al suo centro distrassero bruscamente la sua concentrazione e lei lasciò uscire un gemito soffocato mentre apriva gli occhi di scatto. Malfoy la guardò con occhi larghi e inorriditi. Lei lo fissò. Non l'aveva mai visto come qualcuno di sessuale. Nonostante i 5 mesi in cui l'aveva fatta piegare sul tavolo, non aveva mai davvero registrato il suo aspetto sotto quel punto di vista. Era freddo e pericoloso. Bello, ma solo nell'estetica, come una statua di marmo. Non qualcosa sangue caldo, non qualcosa da cui lei volesse qualsiasi tipo di contatto fisico. Non aveva mai voluto essere toccata da lui in alcun modo. Ora voleva sentire le sue labbra contro le sue, sentire le sue mani su di lei, il peso di lui, da cui era stata così disperata a fuggire la notte prima. Voleva sentirlo, averlo che si abbassava su di lei, a premersi su di lei. Il bruciore dell'eccitazione era stordente. Non aveva mai sentito il bisogno di avere qualcosa dentro di sé prima, ma mentre giaceva lì, si sentiva pronta ad urlare se lui non l'avesse toccata. Non aveva mai pensato che la seconda notte potesse essere peggiore della prima, ma era 1000 volte peggio. Forzò di nuovo gli occhi a chiudersi per smettere di studiare il suo viso, smettere di cogliere tutti i dettagli di lui di cui non si era mai preoccupata di prendere nota prima. I capelli gli zigomi affilati, l'intensità dei suoi occhi, le labbra sottili e i denti bianchi e dritti. Le linee precise della mascella e la gola pallida che scompariva nel colletto nero della camicia. «Muoviti e basta», disse e quasi singhiozzò per lo sforzo che le ci volle per non muoversi da sola. Un momento dopo lo sentì pungolarla e scivolare dentro di lei e immediatamente inclinò i fianchi in avanti per prenderlo più a fondo. Seppellì la faccia tra le mani e cercò di allontanare la mente mentre ansimava contro i palmi e si sentiva rovinata. Tremava. Tutto quello a cui riusciva a pensare era quanto voleva che lui si muovesse, duro e veloce. I gemiti continuavano a formarsi nella sua gola e lei non riusciva a soffocarli. Si trattenne così rigidamente che tutto il suo corpo rabbrividì mentre cercava di non permettersi alcun tipo di reazione. La spirale del desiderio si stringeva sempre di più dentro di lei. Si morse le labbra. Non avrebbe ceduto. Doveva solo resistere. Lui sarebbe venuto presto e sarebbe finita. Allora lei avrebbe potuto lasciare che la pozione venisse smaltita dal suo sistema. Le spinte di lui stavano diventando più lunghe e più dure man mano che raggiungeva la fine. Accelerò leggermente e lei si morse forte la lingua mentre cercava di resistere. E poi si interruppe con un singhiozzo disperato. Tutto il suo corpo ebbe uno spasmo intorno a lui. Poteva sentirsi stringere e stringere mentre lui spingeva dentro di lei ancora qualche volta. E poi lui rabbrividì con un gemito tormentato. Dopo un momento si scostò di scatto e lei fece appena in tempo ad aprire gli occhi per vederlo afferrare i suoi vestiti e materializzarsi direttamente fuori dalla stanza. Riuscì a intravedere il suo volto prima che sparisse. Sembrava grigio, come se stesse per svenire. Si stese sul letto e pianse mentre la testa le si schiariva lentamente. La realtà, amara come il veleno, iniziò lentamente a sanguinare in lei mentre assorbiva quello che era successo. Aveva appena avuto il primo orgasmo di cui aveva memoria. Non sapeva se fosse stata vergine prima di essere mandata da Malfoy. Se non lo era stata, la sua perdita era uno dei tanti dettagli che erano spariti dalla sua mente. Sembrava una cosa strana da proteggere. Quindi, molto probabilmente, non aveva fatto sesso durante la guerra. Tutto sembrava estraneo. Niente le aveva dato alcuna indicazione che il suo corpo avesse familiarità con tali cose. La pozione della lussuria aveva alterato le cose, in modo permanente, temeva. Aveva risvegliato il suo corpo a un nuovo aspetto di queste invasioni fisiche, che prima era rimasto inattivo. Rimase immobile per 10 minuti. Quando il tempo finalmente passò, si alzò e andò in bagno. Tirò fuori tutte le fiale di pozioni rimaste e le versò nel lavandino prima di gettarle nel cestino. Quando alzò lo sguardo, il ritratto era lì, a guardarla nello specchio. Sempre a guardare, sempre in silenzio. Hermione le fece un sorriso amaro e poi si accasciò a terra. La giovane strega pallida fissò Hermione. Sentì freddo, come se stesse andando in shock. Si raggomitolò in una palla stretta, abbracciandosi le ginocchia e cercando di respirare. Stava per impazzire, stava per impazzire. Non poteva continuare a resistere. Non sapeva nemmeno perché stesse tenendo duro, perché non si era lasciata andare mentre era rinchiusa sotto Hogwarts. Malfoy Manor era peggio. Si seppellì la faccia tra le mani. Poteva sentire i fluidi di se stesse di Malfoy sulle sue cosce. Si addormentò sul pavimento.